Vem. Ed ecco la terza puntata di Cialtroni nello spazio, introdotta come al solito dalla inconfondibile sigla di Barry Gray e dal rumore delle sedie che cigolano quando dimentichiamo i microfoni aperti quando parte la sigla. Alessandro e Francesco in studio, ancora senza Marco, quasi per un intero mese, visto che siamo arrivati alla terza puntata. Tanti gli argomenti di cui andremo a parlare oggi, ma sicuramente prima vi spieghiamo che cos'è Cialtroni nello spazio. Alessandro? Nello spazio, la trasmissione che si occupa di informatica, tecnologia, di diritti digitali, di privacy, cultura informatica e cultura della libertà dell'informazione, tutto ciò che è legato comunque al mondo dei nuovi media. Ed è finita la sigla, allora iniziamo anche con il parlare di quella che è la scaletta, un po' di quello che andremo a toccare oggi. Andremo a parlare di licenze, in particolare lo faremo in riferimento alla Microsoft, la ditta famosa in tutto il mondo per il suo monopolio, per aver prodotto il sistema operativo Windows, che è il più utilizzato sui desktop, per aver prodotto Internet Explorer. Non ha bisogno, insomma, di presentazioni la Microsoft. Beh, ha deciso di depositare una licenza quasi uguale o comunque molto simile alle licenze del Free Software, che è stata anche apprezzata dalla Free Software Foundation, e ne parleremo tra poco, legandoci a quello anche della visita del chief della Microsoft, Bill Gates, l'uomo che ha inventato il software proprietario e che è diventato uno dei più ricchi del mondo. Beh, dai, adesso. Visita di Bill Gates allo SMAU, la fiera dell'informatica, con qualche riflessione anche su come è cambiata la fiera dell'informatica di Milano con le ultime edizioni. E poi pubblica amministrazione, e poi, Alessandro, quali altri argomenti? Una sicuramente un'attesa notevole c'è stata. È uscito la nuova versione di OpenOffice, che era già nell'aria quest'estate. Presenteremo alcune novità, comunque una grande attesa che promette molto, promette di diventare, insomma, la suite Office dominante, soprattutto a livello aziendale e in tutte quelle fasce interessate comunque al software gratuito e libero. Don't hold back. Allora, iniziamo da dove? Iniziamo dall'open source, iniziamo da appunto quello che stavamo dicendo, la Microsoft che ha deciso di aprirsi un po' alle porte dell'open source dopo aver per anni detto che chi produceva software libero era dei comunisti, erano gente che non aveva nulla a che vedere, che era pericoloso, eccetera, virali e cancerose, questi alcuni degli aggettivi che venivano utilizzati per le licenze da Microsoft, per le licenze libere. Eppure adesso ha deciso, insomma, di fare una svolta e ha deciso di pubblicare una licenza, anche se per ora, se non sbaglio, non è ancora adottata da nessuno dei prodotti di Microsoft. Esattamente, allora innanzitutto queste sono notizie che stanno viaggiando in rete, quindi non è niente ancora stato effettivamente confermato. Almeno in maniera ufficiale dalla OSI, ovvero quella l'ente che si occupa degli standard internazionali, presso il quale dovrebbe essere appunto depositata questa licenza. Comunque vabbè, la notizia sembra piuttosto reale, commento anche della Free Software Foundation che ha elogiato la Microsoft, insomma ha apprezzato queste nuove licenze proposte da Microsoft, di cui le due principali si chiamano Microsoft Permissive License e Microsoft Community License, e tra l'altro segnalando come queste licenze potrebbero persino rientrare sotto la categoria di free software. Quindi rispettando quei quattro paletti che definiscono il software libero. E qui, vabbè, i commenti poi si sprecano, i ragionamenti si sprecano sul perché Microsoft decida oggi di abbracciare quella filosofia, o perlomeno di presentare delle licenze che abbracciano la filosofia che fino al giorno prima ha denigrato e appunto definito come deleteria per lo sviluppo del software, in realtà come Gates ha sempre fatto dai primordi. Eccoci, appunto da dire che non esiste attualmente un software di Microsoft rilasciato sotto questa licenza, per cui per il momento sembra proprio essere una delle uscite di propaganda di Microsoft, un po' come quella che c'era stata la primavera scorsa, dove veniva data la possibilità ad aziende o anzi ad enti pubblici che ne avessero fatto richiesta di analizzare parte del codice del sistema operativo di Windows e quindi anche dell'Internet Explorer. In realtà poi la cosa si è rivelata impraticabile per la maggior parte degli enti pubblici, anche americani, ed è semplicemente stata un'uscita pubblicitaria perché comunque ormai come molti analisti del settore ormai concordano a dire l'open software cavalca e sta diventando interessante anche dal punto di vista commerciale. Quindi in realtà, almeno a mio parere, non c'è nulla di nuovo a Redmond o comunque alla Microsoft per come strategia. Insomma, si fa molto marketing, molta immagine, molte uscite pubblicitarie, ma il concreto alla fine è sempre lo stesso. Eppure ogni volta che il capo di Microsoft apre bocca, finisce su tutti i giornali di tutto il mondo. È successo anche stavolta nella sua ultima visita in Italia, è stato allo SMAU di Milano. Ha detto sostanzialmente due cose, delle cose abbastanza banali o comunque niente di nuovo, è bastato che dicesse il futuro nel digitale o nella connettività dei media, una cosa che dice tra l'altro da molto tempo e che utilizza per promuovere i programmi che appunto vengono prodotti dalla sua azienda come necessari e assolutamente importantissimi per il futuro della società. Non della società Microsoft, ma proprio della società umana. Anche stavolta è venuto a parlare a Milano e è finito su tutti i giornali. La sintesi del suo discorso, non è di per sé molto interessante. Beh, non dice appunto nulla di nuovo, molto fumo, appunto sulla questione del digitale. In realtà non, cioè dire che il futuro è digitale non vuol dire assolutamente nulla, nel senso che il digitale è solo un modo per trasferire le informazioni. Se si intende con questo dire che il futuro sarà, come appunto pare di voler far credere, sarà tutto appunto una connessione tra apparati differenti, in questa visione onirica della circolazione dell'informazione, eccetera, eccetera. Direi che i 10 anni che prospetta sono ancora da venire. Nel senso che soprattutto certi modi di agire delle aziende come la Microsoft, che paiono essere ai più appunto i paladini di questo sviluppo, quelli che in 30 anni hanno inventato e diffuso il computer, insomma, con questo genere di comportamenti avremo possibilità di aspettare ancora un bel po' prima di avere una vera e effettiva circolazione e soprattutto un vero interesse collettivo. In particolare ha parlato di nuove tecnologie come il Voice over IP, di cui avevamo già parlato, e della possibilità comunque di interagire tra apparati differenti, tra computer, cellulare, telefonia, tutte cose che oggi si possono fare, però proprio a limitare queste connettività, questa, la possibilità di fare interagire apparati diversi, sono proprio le concorrenze che le aziende si fanno nella definizione degli standard, non ultimi i casi sul DVD, sul nuovo formato DVD che ha visto lotte tra i maggiori produttori di supporti e di lettori. Non lotte ancora, che non sono nuove, basta ricordare la fine degli anni 70 tra Betamax e VHS, le lotte che c'erano state per far passare uno dei due formati. Insomma, non c'è niente di nuovo anche in queste guerre. E in queste guerre alla fine il chi rimane indietro, comunque chi molla prima, sono proprio gli utenti. Segnale che si può raccogliere anche dalla chiusura dello SMAU, che si è chiuso domenica, che è considerato insomma la vetrina dell'IT, come viene definito, comunque dell'information technology, di tutto ciò che riguarda telefonia, tecnologia, informatica e tutto quanto. Insomma, niente, una versione dello SMAU abbastanza ridotta, molto più votata al cosiddetto business, al lato business, quindi tendenzialmente punto d'incontro per grandi aziende, grandi amministratori, poco da vedere, e insomma più è diventata più una questione commerciale che un vero una vera vetrina per la tecnologia. Si è parlato di alcune novità, però nulla di eclatante. Probabili accordi di Microsoft con Telecom, anche se non è stato definito proprio nulla su questa fatidica collaborazione. Alcuni premi ad esempio a Ferrovie dello Stato per una nuova tecnologia per l'archiviazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, quindi insomma niente di eccezionale, a parte appunto la visita di Gates, che è suonata più come un grande evento mediatico, teatrale, molta pubblicità, in particolare alla nuova Xbox, che non presenta nulla di eclatante di nuovo, tanto più che si tratta di una console, quindi di un apparecchio che serve per giocare. Dovrebbe diventare anche un media center, quindi un apparecchio che permette di leggere DVD e altre cose, però ecco, si allontana sempre di più da quell'immagine del computer degli anni 70 e prima, degli anni 60-70, dove il computer doveva essere proprio quell'apparecchio che serviva a creare cose nuove, a dare forma alla propria fantasia. Sta invece diventando, almeno nell'idea di Gates e ovviamente di tutti quelli che seguono la sua filosofia, un elettrodomestico che dovrà fare quelle tre cose per cui è stato pensato, e possibilmente dovrebbe farlo nelle modalità di chi l'ha pensato, e quindi non deve leggere le cose che non sono state regolarmente acquistate, per cui non si detengono i diritti relativi. Insomma, una visione molto lontana appunto proprio da quella libertà di diffusione delle informazioni digitali che Gates è venuto a sbandierare proprio in occasione della chiusura dello SMAU. Ascoltiamo un po' di musica, allora, che cosa ci proponi oggi, Alessandro? Allora, un gruppo che è presente nel catalogo di Anomalo, quel famoso sito che abbiamo spesso utilizzato, un portale della musica lasciata sotto licenza Creative Commons. Esatto, allora si chiamano La Parlesia, sono un progetto nato nel 95 che ripercorre e recupera una serie di sonorità mediterranee, Nulla di particolare, però ha fatto piuttosto bene, quindi ci andiamo a ascoltare dall'album omonimo il pezzo Giornata. Continuiamo a parlare di un po' di novità di questa settimana. E in particolare adesso andiamo a parlare dell'uscita. No, anzi, prima di parlare dell'uscita di OpenOffice, andiamo a parlare di un'altra novità che riguarda la pubblica amministrazione italiana. È nato un portale cosiddetto del riuso, che verrà utilizzato per metterci il software proprietario della pubblica amministrazione, che è stato sviluppato e che verrà utilizzato per farlo girare tra le varie pubbliche amministrazioni italiane. In realtà non si tratta di un obbligo, è solo una possibilità che viene un po' sbandierata, ma che potrebbe essere interessante se in effetti divenisse una cosa obbligatoria. Sostanzialmente diventerebbe una sorta di free software della pubblica amministrazione, in cui un peccato che non possano utilizzarlo anche altri utenti, ma sicuramente non è cioè spesso si tratta di software che comunque non hanno un vero ed effettivo valore per le persone che non lavorano nella pubblica amministrazione. Quindi per esempio basti pensare a catasti e cose topografiche sulla su come vengono le costruite, insomma tutte cose di questo tipo, che sono le prime che mi vengono in mente. Questo portale verrà utilizzato appunto per depositare i software che vengono sviluppati dalle pubbliche amministrazioni, che poi altre pubbliche amministrazioni potranno utilizzarle. Don't hold back. Don't hold back. Don't hold back. time's come to push the button. World, the time's come to push the button. World, the time's come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Andiamo adesso a parlare invece dell'attesa uscita di OpenOffice 2.0, le caratteristiche e le novità rispetto a questo programma che, ricordiamo, ne abbiamo già parlato diverse volte, è sostanzialmente una suite che potrebbe tranquillamente sostituire la maggior parte, se non tutte le suite di ufficio che ci sono in giro per il mondo, con la differenza che questa è open source, anzi è free software ed è anche gratuita per appunto chi vuole utilizzarla. E quindi sono state negli ultimi anni molte le aziende e anche alcune pubbliche amministrazioni che hanno deciso di passare a OpenOffice, passando da tipicamente quella che era la suite più utilizzata, ovvero quella di Microsoft, il famoso Microsoft Word ed Excel, PowerPoint, e passare ai programmi appunto di OpenOffice. Con la versione 2.0 c'è una compatibilità ancora maggiore tra le due due suite, e in particolare Alessandro ci va a elencare le altre caratteristiche. Allora sì, ci sono un po' di caratteristiche nuove. Allora, innanzitutto una maggiore cura della grafica, dei pannelli, degli effetti, che ormai sono molto molto vicini alla versione di Office XP, quindi le trasparenze, i pannelli fluttuanti, i toolbar editabili, quindi gli strumenti editabili, personalizzabili. Quindi diciamo che ha raggiunto come livello di usabilità proprio estetica gli stessi livelli di XP. Poi ha corretto alcune limitazioni, in particolare una abbastanza grossa rispetto al Microsoft Excel, che era la limitazione del numero di righe di calc, che era il foglio di calcolo, che poteva arrivare solo fino a 32.000 righe. Per l'utente normale ovviamente questo non ha alcun interesse, nel senso che è difficile che uno faccia 32.000 righe di foglio di calcolo, però effettivamente era un limite ed è stato portato alle 65.000 rotti, esattamente come Excel. Altre cose interessanti invece che l'OpenOffice ha in più rispetto all'Office di Microsoft sono la compatibilità con alcuni standard aperti come le XForm, che sono il nuovo standard V3C per il web, quindi la possibilità di creare delle pagine web con questi elementi che si chiamano XForm, la possibilità di creare dei PDF. Cosa che c'era già, ma è stata migliorata, perché adesso è possibile avere delle opzioni aggiuntive sul PDF che viene creato, quindi è possibile creare delle pagine uniche oppure dividere la stampa in più pagine come tradizionale, settare parametri per la compressione delle immagini e del testo, quindi insomma un arricchimento del tool per la creazione di PDF, un arricchimento anche dei comandi, delle possibilità che c'è in Draw, che era il programma per l'editing di immagini vettoriali, quindi freccettine, simboli, una palette migliore, cosa che Office generalmente non cura molto. Il supporto al formato Open Standard di cui avevamo parlato la prima puntata, Open Document, Open Standard XMLS, quello che è. Un'altra novità molto importante è l'inclusione, questo va bene rispetto alla versione 1.15 che era l'ultima stabile, l'inclusione del nuovo programma che si chiama Base, per i database. Sostanzialmente è un clone di Access, non mi veniva il nome, il clone di Access, con la differenza che supporta tutti gli standard SQL e si interfaccia con database come MySQL, cosa che invece Access non fa. è stata inserita la stampa guidata, che era una parte mancante di OpenOffice, era una delle carenze maggiori, e alcune altre funzionalità meno importanti che comunque vanno ad arricchire l'offerta di questo pacchetto, che punta a questo punto veramente a diventare il pacchetto di riferimento, in particolare per le pubbliche amministrazioni, i piccoli uffici e tutti quelli che vogliono abbandonare il software proprietario senza tuttavia perdere le potenzialità di una suite ricca come appunto una suite Office di questo tipo. E questo ci introduce anche all'ultimo argomento di oggi, mi pare, ovvero una petizione che è stata lanciata per chiedere che Microsoft sostenga il formato Open Document. Questo arriva un po' anche in beffa a quello che era stato proposto da Microsoft, che ricordiamo aveva detto che aveva deciso di passare a sostenere anche il PDF con molto ritardo rispetto al programma di OpenOffice lo possedeva fin dalle primissime versioni, il formato di esportazione in PDF. Microsoft ha detto che aveva deciso di supportare il PDF proprio perché c'erano state molte richieste da parte degli utenti. Ecco, è stata lanciata proprio una petizione. Noi adesso l'abbiamo trovata sul sito di Attivissimo, Paolo Attivissimo, che è www.attivissimo.net. Vedremo se ci sono dei link diretti alla petizione. E comunque c'è un modulo che si può compilare e richiedere a Microsoft di sostenere il formato Open Document. Quindi in un modo molto semplice si può mandare questa domanda a Microsoft e chissà che questo non giovi a tutti, perché una maggiore compatibilità tra i due software sicuramente andrebbe a vantaggio alla fine degli utenti e non semplicemente delle aziende. Ecco, rispetto a questo, diciamo che per quanto riguarda l'Open Document è più semplice, in quanto per il PDF Microsoft avrebbe dovuto includere o delle librerie open e quindi rendere il suo software aperto, cosa ovviamente che non ha nessuna intenzione di fare, oppure pagare le royalties per le librerie sotto copyright della Adobe, che è il suo diretto concorrente in generale nel software proprietario, quindi ha sempre storto il naso da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'Open Document è più semplice, anche se il cambio di un formato, passaggio a un formato aperto, vorrebbe dire per Microsoft perdere quel grimaldello che le permette oggi ancora di vendere una suite come Office, che può costare intorno al migliaio di euro, quando ne esistono di gratuite come appunto OpenOffice, ma come altre come KOffice sotto Linux, eccetera eccetera, ampiamente confrontabili con il loro prodotto e che sono a costo zero. Prima di concludere andiamo a sentire un altro pezzo della Parlessia, allora La Vecchia di Lactu. basta stare. Lo viento, lo viento, mi fa dondoleare. Porcata e quattro cante. Lo viento non me lascia stare. Lo viento me fa donnoleare. Lo viento non me lascia stare. Lo viento me fa donnoleare. Sì, stavo soffiando. E si chiude qui la terza puntata di Cialtroni nello spazio, edizione 2005-2006. Sentiamo molto la mancanza di Marco, ne sta risentendo parecchio anche la trasmissione. E noi vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo, sempre sulle nostre frequenze, sempre più o meno attorno alle 12.40. Il sito è spazio.circolab.net, lì trovate anche il modo per comunicare con noi e tutte le puntate vecchie di quest'anno e dell'anno scorso. Spammateci!